Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Dottore, c'ho bisogno di lei. È da diverso tempo che io, dopo mangiato, c'ho gli acidi, i bruciori di stomaco e anche qualche rotino. Tante cure ho fatto, sa, ma non mi hanno fatto bene nessuna. Sì, ma io non sono dottore. È lo stesso. Chissà che non possa fare qualche cosa anche lei, anche se non è un dottore. Io sono ingegnere. Fa lo stesso. Tante volte anche il parere di un ignorante va bene. Con questo male, con questo bruciolino di stomaco, non ho volontà di far niente. Dopo che ho mangiato, me ne sto lì come una mummia. Ma cosa fa, dottore? Dorme. Ui. Dottore, dottore, la mia medicina l'ha trovata. Dottore, la medicina l'ha trovata. Dottore, la mia magnesia l'ha trovata. Dottore, la magnesia! La mia magnesia! Come, non deve essere mica un dottore, vecchio. Buongiorno, eccoci insieme, un saluto da Nicoletta Carbone. Io il dottore ce l'ho perché mi sono portata avanti, anzi l'ho fatto proprio venire in studio, il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, bentornato. Ben trovata Nicoletta, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. No, stavamo sorridendo per questo film di Dino Risi che vabbè, non serve anche se non c'è il dottore, ma è vero. È vero, le mogli dei medici lo sanno benissimo, quando telefona il paziente, ma è uguale signora, lo dico a lei, non si preoccupi. Ma non è tanto uguale. Però tante volte abbiamo proprio bisogno di raccontare quello che avvertiamo a qualcuno. Già questo ci solleva, anche se è ingegnere. È vero, effettivamente raccontarlo già ci fa sentire un po' meno soli di fronte al disturbo, al sintomo, alla malattia. E quindi a volte si va bene anche un ingegnere, magari un medico è meglio. 800 24 00 24 se volete parlare di questo bruciore di stomaco insieme a noi, o se volete scriverci i vostri messaggi 349-238-6666, vi ricordo anche il nostro profilo Facebook e la mail esserebenessere@radio24.it. Parliamo di un disturbo molto diffuso, a me ogni tanto capita, un bruciore che sembra proprio come se lo stomaco improvvisamente andasse in fiamme, almeno a me capita così, ma ciascuno lo descrive perché non è sempre solamente uno sintomo che ci preoccupa, ma vengono sempre un po' in compagnia. Sentiamo come lo descrivono. Io sto benissimo, solo che la sera se non faccio un po' di movimento non riesco a digerire bene, quindi dovrei anche muovermi prima di andarmi a coricare, perché poi dopo acquisto problemi di stomaco, mal di gestione e poi faccio gli incubi la notte, quindi meglio muoversi prima di fare il solito bisolino notturno. Io ho un po' di problemi di stomaco, soprattutto di notte, sento come un bruciore interno, sembra un fiammifero all'interno del corpo. Io non è che soffro proprio di bruciore di stomaco, cioè mio medico mi ha detto che si chiama gastrite, cioè ho mal di pancia, ho dolore sotto lo sterno, un po' di nausea, mi sveglio la mattina con una specie di amaro in bocca, non sto meglio da quando non prendo più il caffè comunque e magari bevo il vino rosso anziché il vino bianco a cena. Ma guarda, proprio l'altro ieri sono uscita con degli amici a mangiare una pizza, ho sentito un bruciore fortissimo allo stomaco, proprio qua all'imboccatura, e avevo anche un po' di acidità. Non è la prima volta che mi capita, infatti prima delle vacanze ricordo che era un periodo in cui ero molto stressata e ogni sera andavo a dormire con questa sensazione di avere proprio lo stomaco in fiamme. Allora, dottor Gargiulo, il caffè, la pizza, il vino rosso al posto del vino bianco, lo stress, possibile che questo stomaco sia così delicato e ne abbia sempre una? Ma se noi pensiamo al sintomo di una volta, quello che magari segue un'abbondante bevuta della sera prima, le lasagne della suocera che non erano poi così digeribili, insomma, tutte quelle cose che attentano il nostro stomaco, sì, dobbiamo dire che è delicato, però in realtà questi sono segnali leggeri, segnali con cui il suo stomaco tira un po' le orecchie a noi che abbiamo fatto stravizi per dire dirci attenzione perché bisogna stare un po' più attenti. Diverso invece il discorso se questi disturbi si presentano frequentemente, cioè questi disturbi, abbiamo sentito la ragazza che diceva prima dell'estate più volte ho avuto il problema, ecco, in quei casi forse il consiglio del medico può essere particolarmente utile. Perché, dottor Gargiulo, importante è la frequenza. Credo che per un medico sia importante capire dalla descrizione dei sintomi se il paziente che ha davanti lamenta un problema serio o paga solo, no, il prezzo di uno stile di vita un pochino sregolato. Insomma, il medico deve fare diagnosi già parlando con il paziente, deve capire dove deve già orientare verso quella che potrebbe essere una diagnosi. D'altra parte la dispepsia, questo è il termine tecnico per indicare questi disturbi che abbiamo sentito, dalla bocca amara al bruciore, al senso di rigurgito, al senso di nausea, a volte anche al mal di testa. La dispepsia può dipendere da cause diverse, può dipendere da un reflusso gastroesofageo, può essere la conseguenza di una colecisti che non funziona bene o addirittura può essere il sintomo che si manifesta per una gastrite o per un'ulcera gastrica o duodenale. Insomma, il problema si fa serio, almeno difficile. Dico che in due le difficoltà si superano meglio. È in linea il professor Dino Vaira, che insieme a lei ha curato una collana di divulgazione medica dedicata proprio alla storia, alla diagnosi, alla terapia delle malattie più comuni. Esattamente. Intanto salutiamo il professor Vaira, che è professore associato in medicina interna al Policlinico Sant'Orso, l'Università di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Carlo e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Professore, noi parleremo insieme a lei di mal di stomaco, ma soprattutto lei è qui in linea con noi per raccontarci avventure e disavventure di un batterio da Nobel, l'Helicobacter pylori. Intanto le dico che mangiare e digerire è la cosa più bella del mondo, subito dopo far l'amore, quindi avere una buona digestione significa anche avere un'ottima qualità di vita, cara Nicoletta, come Carlo sa benissimo. Quindi assolutamente dobbiamo fare in modo che questo nostro stomaco funzioni bene. Parleremo anche dell'Helicobacter pylori, che è il protagonista anche del libro. Helicobacter pylori, benedetto il giorno che ti ho incontrato, così è il titolo del vostro libro, un libro molto divertente, pieno di anche curiosità, di aneddoti, in cui ci si riconosce molto facilmente. Professor Vaira. Questo è il nostro obiettivo. Io e Carlo ci siamo proposti esattamente quello che lei ha detto, di fare un libro tra virgolette divertente, parlando di cose serie, ma possibilmente senza annoiare. Insomma, ci siete riusciti, almeno secondo me promossi. Ci abbiamo provato, effettivamente. Devo dire che io ho cercato di trasmettere a Dino Vaira tutte quelle che erano le domande dei miei pazienti a cui io non sempre sapevo dare risposte. Vedremo più avanti, Dino è bravissimo da questo punto di vista a raccontarcelo, come questo batterio abbia cambiato la storia naturale della gastrite e dell'ulcera, e noi medici ci dobbiamo uniformare a queste novità. Tra l'altro, professore, possiamo dare un'anticipazione, perché questo batterio è molto legato alla passione di uno dei due vincitori del Nobel, la passione per il surf. Quindi è proprio così, ma guardi, mo, se non ci fosse stato il surf, se non ci fosse stata questa passione, semmai io e il povero Carlo continuiamo a dire ai nostri pazienti lo stress è importantissimo, la dieta è importantissima e tutte queste belle cose che ci hanno trasmesso i nostri maestri per almeno 50 anni. Ci mettevate in bianco, allora viva il surf. Adesso andiamo a sentire un po' i sintomi che in qualche modo possono presentarsi in coppia, in terzina, quando il nostro stomaco ce la mette tutta per dirci oi, qualcosa non va. Andiamo. Il dolore al centro pancia come una stilettata che trapassa l'ombelico. Arriva spesso a digiuno e può essere paragonato ad un ferro sottile e rovente che entra dall'ombelico e a volte esce dalla schiena. Oh! Poi c'è la nausea, un sintomo ben conosciuto dalle mamme in attesa, ma che in alcuni casi viene riferito da chi non è in stato interessante. E che dire del gonfiore? A volte allentare la cintura non basta e ci si butta sul letto con i pantaloni slacciati in cerca di un po' di sollievo. Dottor Gargiulo, noi abbiamo già aggiunto altri sintomi che sembrano non avere nulla a che fare con lo stomaco, ma in qualche modo vengono poi provati: la sonnolenza, il mal di testa, il nervosismo, l'irascibilità. Insomma, sì. Si completano un po' il quadro della digestione difficile. Esatto, che il professor Vaira dice che è la seconda cosa più bella della vita dopo il sesso, ma l'amore. Perché in realtà il nostro apparato digerente influisce su tutte le attività quotidiane, l'abbiamo visto, ne abbiamo sentito. sentito anche da questi sintomi. E quindi, al di là del sintomo locale, che è il bruciore prevalentemente, ci sono questi altri sintomi generalizzati dovuti proprio al fatto che lo stomaco è un po' un altro cervello che influisce proprio sul nostro tono dell'umore. Insomma, bisogna avere rispetto dello stomaco, preoccuparsene come magari ci preoccupiamo del cuore o di altri organi che definiamo più nobili. Non è così, lo stomaco ha un'importanza notevole. Professor Vaira, noi abbiamo sentito dal nostro sondaggio una ragazza che diceva: il mio medico mi ha detto che è una gastrite. Allora, focalizziamoci su questo termine, quel finale in ite ci mette un po' sulla strada. Ite rimanda all'infiammazione. Il nostro stomaco è infiammato, la causa nel 90% dei casi è proprio il batterio che ha fatto guadagnare, vincere un Nobel nel 2005. Professore. È proprio così, è proprio così. Lei giustamente diceva: facciamo un po' di aneddotica, ma è veramente così. Io insegno agli studenti del quarto anno di medicina e chirurgia, insegno medicina interna nella cattedra di oncologia, e quando vedo degli studenti che non hanno la media del 30, ma semmai hanno la media del 20-21, gli dico di non scoraggiarsi, perché il futuro potrebbe essere anche loro. Ed è successo esattamente così quando lei parlava di questo ricercatore che amava fare surf, ma tutto sommato non aveva tanta voglia di studiare, perché dobbiamo a lui questa poca voglia di studiare, questa enorme scoperta. E mi spiego meglio: proprio perché non seguiva alla lettera l'istruzione del suo tutor, del suo professore, che grande Robin Warren, che ha preso con Barry Marshall il premio Nobel, ha lasciato queste piastre incustodite in un termosto da 37 gradi e se n'è andato tranquillamente a fare surf. Ha lasciato queste piastre per 5 giorni e dopodiché si è ricordato di averle lasciate e ha anche pensato che si poteva anche giocare la sua laurea in medicina e chirurgia. Ritornando appunto in ospedale a Perth, in questa cittadina sull'oceano, in Australia, è andato dal prof con il capo cosparso di ceneri, pensando di essersi giocato la possibilità di diventare nel senso di abilitazione alla professione medica di medicina e chirurgia, e il grande professore Robin Warren invece è riuscito a identificare questo batterio. Come vede, ci vuole veramente quel pizzico di fortuna, però in menti illuminate e fornite, forbite e nutrite da ricerche e da cultura da almeno 30 anni. Però Dino, bisogna anche dire che gli è costato 2 gastroscopie in un'ingestione di batteri non di poco conto. Beh, non gli è costato, come tu pensi, Carlo, 2 gastroscopie, gli è costato 3 gastroscopie, perché quando il professor Warren gli ha detto: bene, abbiamo bisogno di un volontario, uno a caso, ovviamente lui ha detto: mi offro io come volontario. Quindi si è fatto fare una prima gastroscopia in cui non c'era assolutamente nulla, dopodiché si è mangiato letteralmente 100 milioni di batteri, si è fatto fare una seconda gastroscopia in cui ha dimostrato in pratica che, tirando via l'elicobacter, famoso suffisso di cui parlava la Nicoletta, la gastrite, l'infiammazione, è venuta via. Magnifico. Bellissima è una storia. È una storia bellissima. Lui se li è mangiati, professor Vaira. Ma perché appunto studiava poco, perciò se li mangiava. Ha avuto la media del 30 col fisco che se li mangiava. Quindi, però noi come facciamo a beccarci questo batterio, dato che non facciamo surf, dato che non dobbiamo arrivare dal nostro prof con il capo cosparso di cenere e non vogliamo rifarci la gastroscopia? Qual è come avviene il contagio? Quando siamo piccini, quando le nostre mamme amorevoli, la mia, quella di Carlo, quella la sua Nicoletta, quando siamo piccini nei primi 12 mesi hanno un rapporto simbiotico con il bebè, quindi le pappine, quindi i cucchiai, quindi con la punta della lingua si assaggia se la pappa scotta, quindi i bavaglini, i rigurgitini, ce lo becchiamo proprio in questa fase della vita. Però c'è da dire, ringraziando il cielo, che questo non succede in maniera matematica. Su 100 mamme che assaggiano con la punta della lingua la pappa e sono positive, solo 40 trasmettono il batterio, 60 non lo trasmettono. Quindi sfatiamo questo luogo comune che tutti abbiamo ricobato: non è vero assolutamente nulla, 25 milioni di italiani ce l'hanno, ma 35 milioni di italiani non ce l'hanno. Dottor Gargiulo, e io come faccio? È asintomatico, come faccio a capire, come mi stanno chiedendo i miei ascoltatori, se ho l'elicobacter oppure no. È complicato smascherare il colpevole? Assolutamente no, con un test molto semplice che è stato messo a punto per vedere la presenza di alcune sostanze all'interno del respiro, e si chiama Breath Test, e quindi ci dice che il batterio è presente nello stomaco, si ingerisce dell'urea e questa viene metabolizzata, per cui dà questa presenza di sostanze nel respiro e noi la analizziamo, oppure con una ricerca delle feci di questo batterio. Quindi questi due test, che sono di esecuzione abbastanza rapida e di risultato quasi garantito al 100%, noi abbiamo la possibilità di fare una diagnosi. Addirittura il Breath Test, che si lamentava essere troppo lungo nel tempo, è stato accorciato con una metodica messa a punto proprio da Dino Vaira, e credo che lui ci possa raccontare meglio ancora come è successo di accorciare i tempi di questo test. Professore, quindi vuol dire che anche lei fa surf, se è riuscito a fare questa, no? Ebbene sì, mia cara. Vero? Amico, glielo confesso. Dove va? Sì. Dove va a fare surf? Perché adesso inizierò anch'io, chissà. Adriatica Romagnola, mica a casa mia sul Gargano, si dice il mare vero. Chissà, dottor Gargiulo, andiamo anche... No, lei forse non ne ha bisogno. Io dovrò prendere lezioni di surf, chissà mai. Allora, mi racconti che cosa è riuscito a fare, professor Vaira? Abbiamo sdoganato, questo come diceva il grande Carlo Gargiulo, abbiamo sdoganato un test non invasivo. E questo da solo meriterebbe un premio Nobel, cara Nicoletta, perché adesso i nostri pazienti che hanno meno di 55 anni non hanno bisogno di fare una gastroscopia. Certo che in ultima analisi chi decide è sempre il grandissimo medico di base. Ma ringraziando il cielo, una maldigestione, aver digerito male la pizza, non impone una gastroscopia, perché il medico di base ha a disposizione questi due test di cui ne parlava il dottor Gargiulo. Noi abbiamo sdoganato questo test veloce, perché le dico sdoganato? Perché è disponibile addirittura in farmacia, tipo come un test di gravidanza, perché uno si va a comprare le due provettine a dei costi veramente modesti, soffia in queste due provettine, manda le due provettine per posta a un centro di laboratorio che in 24 ore sono in grado di dare il risultato positivo o negativo. Questo fa sì che riusciamo realmente a eliminare la possibilità di effettuare un esofago gastroenteroscopia, che sicuramente non è la fine del mondo, ma sicuramente però abbiamo non è cose più piacevoli da fare. Prima di andare a sentire i mercati, che voglio dare con precisione svizzera, il bacio, col bacio, se io mi bacio con mio marito? No, col bacio assolutamente possiamo baciarci, no, possiamo baciarci e l'elicobacter sta lì dov'è? L'elicobacter quindi rimane da adulti, dov'è? Da adulti possiamo, non c'è più questo baciamoci. Problema. Adesso andiamo a sentire i mercati, poi il meteo, poi di nuovo insieme. 800 24 00 24, tra poco. Eccoci, siamo tornati e parliamo di Helicobacter pylori. Benedetto, il giorno che ti ho incontrato, prendiamo spunto da un bel libro del professor Dino Vaira e del dottor Carlo Gargiulo, che raccontano un po' avventure e disavventure di questo batterio che ha fatto guadagnare un Nobel. Ma professor Vaira, perché questo batterio dobbiamo togliercelo di dosso il più presto possibile, dopo che adesso abbiamo capito è facile individuarlo, scovarlo? Cara Nicoletta, perché nel 1994, quindi in tempi non sospetti, l'Agenzia Europea per la Prevenzione del Cancro in generale, quindi mammella, polmone, pancreas, prostata e chi più ne ha più ne metta, l'ha identificato cosiddetto cancerogeno classe 1, ovvero sia la stessa stregua del fumo per il cancro dei polmoni. Quindi una volta tirato via l'elicobacter dallo stomaco dei nostri pazienti, non solo gli garantiamo una qualità di vita, non solo gli garantiamo che digeriranno meglio, ma la cosa fondamentale, gli proteggiamo dal possibile sviluppo di una neoplasia, quindi di un brutto male nello stomaco. Quindi assolutamente dobbiamo tirare via questo batterio dagli stomaci dei nostri pazienti. Io direi che questo batterio è un batterio sicuramente famoso, ha vinto il Nobel, insidioso, ma democratico, che non ha avuto timore di insediarsi nello stomaco di personaggi celebri e importanti, come Napoleone, che non a caso, se vi ricordate, è sempre ritratto con la mano appoggiata sullo stomaco. Il pioniere di questa stirpe di ammalati VIP, colpiti dall'Helicobacter pylori e dai suoi nefasti effetti collaterali, è senz'altro il generale Napoleone Bonaparte, il quale, non a caso, veniva sempre ritratto con la mano appoggiata allo stomaco. Nato nel 1769, l'imperatore si spense il 5 maggio 1821, dopo 6 anni d'esilio. La parabola del progressivo peggioramento del suo stato di salute potrebbe essere riassunta in 5 fasi, corrispondenti a 3 quadri sintomatologici ben precisi. 1817-1819. Napoleone accusa dolori allo stomaco, nausea, mal di testa. 1820-1821. Sacrofobia. Si dice che Napoleone mostrasse un totale rifiuto al consumo di carne. Disfagia. Difficoltà a deglutire. Calo ponderale. Per me ogni azione è come se affrontassi le prove di Ercole, diceva il generale. Marzo-maggio 1821. Dolore, febbre e copiosa sudorazione. In base ad alcune testimonianze, sembra che Napoleone fosse costretto a cambiare abito più volte nel corso della notte. Ematemesi, vomito emorragico costituito da presenza di sangue proveniente da stomaco, esofago o duodeno. Diagnosi. Napoleone aveva un'infezione da Helicobacter pylori, con conseguente ulcera prepilorica e successiva evoluzione a cancro gastrico. Professor Vaira era messo male, però. Non è che anche perché Napoleone ne ha fatte più di Bertoldo in Francia, quindi anche l'Helicobacter sarà stato particolarmente agguerrito con lui. E cosa vuole che le dica? Poteva essere un Helicobacter da guerra. La vendetta del batterio. Senta, professore, io volevo intanto dare la linea a un po' di ascoltatori che si sono messi in contatto con noi all'800 24 00 24. Li ho trascurati, ma volevo dare un quadro un po' generale di questa situazione. Abbiamo Giuseppe che ci chiama da Bologna. Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno. Niente, io quando mangiavo qualcosa avevo dolore allo stomaco, ho fatto una gastroscopia a maggio dove, dove mi hanno visto un'ernia iatale, un inizio di ulcera, l'esofago infiammato. Ho fatto una cura, ho rifatto la gastroscopia ad agosto, ho finito la cura a settembre, ho finito la cura, mi aveva detto il dottore di sospendere le pasticche. Sono stato 3 giorni senza pasticche e 3 giorni io ho avuto dolore allo stomaco, bruciore di stomaco. Ecco, il test l'ha fatto per l'Helicobacter, Giuseppe? Sì, è stato fatto tutto, non c'è niente in giro di questa cosa. Quindi, ho richiamato il mio medico, sì. Ho rifatto presente la cosa e sto riprendendo queste pastiglie. Dottor Gargiulo, è abbastanza frequente caso di Giuseppe che nonostante... Sì, perché probabilmente ci troviamo di fronte ad una situazione da reflusso gastroesofageo, come lui stesso ha descritto, e quindi l'acidità gastrica che risale nell'esofago trova una mucosa che non è adatta e la brucia, la rovina. Ecco perché probabilmente l'utilizzo ripetuto dei farmaci inibitori di pompa protonica, quelli che diminuiscono l'acidità, può essere utile. Però credo che Dino Vaira ci dica ancora qualcosa di più preciso. Professore. Carlo, cosa dici se dessimo un bel tenderlode al Nicoletta? Che ha fatto la domanda precisissima quando gli ha chiesto, ma il test l'ha fatto? Beh, ma Nicoletta è bravissima. Ma si merita veramente un tenderlode. Grazie, però adesso, dopo che lei ha detto che lo scopritore del Nobel aveva 20 all'università, io preferisco convertire il 30 lode con il 20, chissà che prima o poi mi arrivi un premio anche a me. Why not? Raffaello da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Io volevo fare una domanda al professor Vaira o al dottor Gargiulo. Sì. Ed è questa. Io vado un po' in controtendenza rispetto agli altri casi. A me, al contrario, è stato sconsigliato di debellare l'Helicobacter in quanto sembrerebbe che aiuti nel caso di reflusso gastrico e esofagite. Quindi volevo chiedere... Ma lei è andato da un medico o da un ingegnere? Come ci raccontava la nostra vecchietta. Io sono andato da 3 medici specialisti in gastrologia. Che è la cosa peggiore, secondo me, anzi più facile per farsi del male e sentirne tanti, no? Professor Vaira, è d'accordo con me? Assolutamente sì. Perché a Raffaello gli hanno detto l'Helicobacter se lo tenga? Perché la verità vera, e Carlo Gargiulo lo sa perché fa il dottore in trincea, è che questo batterio è difficile da tirar via. Quindi sinceramente anche un po' il dottore che ci prova, dopo il primo insuccesso, si lascia prendere dallo sconforto e per cui tutto sommato la paucità dei sintomi, il fatto che tutto sommato non ha dei sintomi eclatanti, fa sì che lo come dire, lo ritenga poco importante. Volevo sottolineare quello che lei aveva detto, per esempio Napoleone Bonaparte ci ha messo 6 anni prima di sviluppare un brutto male. Cosa voglio dire? Che questo batterio è insidioso, ma ci mette 10-20 anni prima di dare qualcosa di terribile, e questo che rappresenta la sua insidia, ecco perché assolutamente bisogna tirarlo via, perché rappresenta un precursore, alla stessa stregua per esempio per il nodulino che si fa quando si fa la mammografia. Ma lei sa benissimo che l'incidenza del cancro della mammella è venuto meno non perché abbiamo preso un premio Nobel, ma banalmente perché abbiamo convinto le nostre mamme e le nostre sorelle a fare una mammografia di screening, che vuol dire prevenzione vera, arrivare 10 anni prima. Certo. Questo è il nostro obiettivo con lo stomaco. Dino Vaira, ma a questo punto vogliamo raccontare come si fa ad eradicarlo, perché la terapia oggi è cambiata anche grazie a una ricerca che avete fatto voi a Bologna. E vorrei sapere quanto è cambiata, come sono i risultati da 1 a 100? 94, le piace questo numero? Mi piace, 94. Allora, professore. Per noi che facciamo i dottori come me e come Carlo, avere una terapia che funziona 94 volte, mi creda, è una cosa rarissima, cioè avere la quasi garanzia che su 100 pazienti riusciamo a guarire 94 persone. Questo in più è veramente un made in Italy, fatto da Regina Elena di Roma e da Bologna, dall'Università di Bologna, quindi è una terapia che abbiamo codificato, pensato, se mi permette, inventato noi nel senso italiani. Sì. Siamo riusciti a sdoganare nella grande fantasmagorica Stati Uniti d'America, appunto tale che l'FDA, il Food and Drug Administration americano, l'ha inglobata. Una terapia di 10 giorni, detta appunto sequenziale, per 5 giorni noi diamo un farmaco che protegge lo stomaco, il famoso inibitore della bomba protonica, questo nome è difficile ma che in realtà è un banalissimo farmaco che mi abbassa la secrezione dell'acido, con una amossicillina, e per altri 5 giorni sempre il farmaco che mi protegge lo stomaco con altri 2 antibiotici, che la clarithromicina e tinidazolo. Qual è la cosa positiva? Che una volta tirato via l'Helicobacter abbiamo la garanzia che per 50 anni non torna più e non ci si infetta più, quindi è un capitolo chiuso. Questo è il motivo per cui a tutti i costi, assolutamente, pazienti e colleghi devono mettersi nell'ordine idea che tirando via questo batterio noi ridurremo nei prossimi 10 anni l'incidenza di tumore nello stomaco. Quindi, non se ne parla più. Non è che non se ne parla più. Ecco, nel senso più, che una volta eradicato, finito il problema. Esattamente. Quello che invece è più difficile, secondo me, da liberarsi, da togliere, da spiazzare, sono tutti i luoghi comuni, le false credenze che pesano sul nostro stomaco. Ve ne sottopongo alcune che ho preso dal libro Helicobacter pylori, benedetto il giorno che ti ho incontrato. Facciamo una abbiamo un minuto prima di andare alle informazioni sul traffico. Il caffè fa male allo stomaco, dottor Gargiulo? No, il caffè non fa male allo stomaco. Professor Vaira, il peperoncino cura l'ulcera? Assolutamente no, ma è molto buono, lo so, mi rendo conto. Le arrabbiature? L'ulcera da stress è un evento rarissimo, le arrabbiature non bastano. Chi soffre di ulcera, professor Vaira, deve mangiare poco e spesso? Assolutamente sì. Gli antibiotici possono provocare la gastrite, dottor Gargiulo? No, anche se i pazienti si lamentano, gli antibiotici che usiamo per eradicare, no. Altri antibiotici forse potrebbero dare dei problemi se presi a stomaco vuoto, ma questi no. I cibi caldi fanno male allo stomaco, professor Vaira? No, basta che non siano bollenti, se no ci sosteniamo. Chi soffre di gastrite deve mangiare in bianco, dottor Gargiulo? No, la dieta in bianco è un retaggio dei vecchi tempi, quando davamo tanto latte che faceva peggio. Masticare poco e o mangiare in fretta provoca la gastrite, professor Vaira? Ma certo, perché non si fa gustare il cibo che mangiamo, è un peccato di Gesù. Senta, professore, masticare a lungo il chewing-gum danneggia lo stomaco? Assolutamente sì. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi entreremo quasi in cucina, con i consigli di un'amica di Essere Benessere che conoscete bene perché è ormai della squadra della riduzione del sale. A tra poco. Helicobacter pylori. Allora, abbiamo detto un batterio che è facile da diagnosticare. Esattamente. Dottore Gargiulo. Due test semplici, uno sulle feci e uno sul respiro. Poi è facile da curare perché una terapia antibiotica sequenziale, come abbiamo detto, fatta con un inibitore di pompa protonica per 10 giorni, più amoxicillina i primi 5 giorni, claritromicina e tinidazolo i secondi 5 giorni. E con questo sistema togliamo completamente da torno il batterio. Professor Vaira, ma come faccio a capire che la terapia su di me ha funzionato, che sono quindi quel 94%, rientro in quella percentuale del 94% dei pazienti che hanno una buona aderito, cioè sono riusciti ad eradicare l'infezione? Facciamo di nuovo dopo 4 settimane dalla sospensione della terapia, quindi dobbiamo aspettare un mese, non immediatamente dopo finita la terapia, uno dei due test non invasivi, quelli che abbiamo a disposizione, o il test sul respiro, questo appunto nuovissimo che abbiamo messo a punto da 10 minuti, che vuol dire che si fa un soffio all'inizio e un altro dopo 10 minuti, oppure il test sulle feci. Se uno dei due test è negativi, noi siamo a posto quasi per 50 anni. Io posso far fare la cura anche ad un bambino 10-12 anni? Se è positivo sì, se la mamma è positiva ovviamente. Certo. Allora, e in linea con noi abbiamo la dottoressa Paola Reverso, ve l'avevo già annunciata, dietologa, nutrizionista. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Anticipavo che lei è una della squadra Operazione Sale, un pizzico in meno, tanta salute in più, che essere benessere porta avanti in collaborazione con Mario Negri di Bergamo e coi preziosi consigli della dottoressa Reverso e le ricette di Andrea Ribaldone, chef stellato. Tante volte per così assecondare, per coccolare un po' lo stomaco che si lamenta, dottoressa, noi mangiamo in bianco, abbiamo visto che non serve, però facciamo tutte delle cose strane in cucina, ci togliamo anche un po' il piacere. Di sederci a tavola. Ci dai in un paio di minuti, proprio un paio, perché poi abbiamo una notizia da darvi fresca, raccontare quali sono le strategie e trucchetti che possiamo utilizzare per coniugare la salute del nostro stomaco, il benessere, perché sennò poi rompe, e anche appagare il nostro gusto? Intanto faccio una brevissima premessa, che dovremmo sempre cercare di mangiare cibi semplici, cotti in modo semplice, senza andare a ricercare troppo, perché dobbiamo volerci bene, lo stomaco fa parte di noi, non vedo perché dobbiamo maltrattarlo così tanto. Certo. E a volte ce ne dimentichiamo. Per il resto poi basta, come dicevo, stare sulla semplicità dei cibi, poi cucinare già dovrebbe essere un momento di rilassamento, almeno per me è così, e quindi poi anche quando mangiamo la prima cosa è masticare, quindi cerchiamo di privilegiare, se siamo in una fase acuta, quando abbiamo dei sintomi ben evidenti e fastidiosi, privilegiamo la cottura nel forno o quella a vapore, quindi la carne, che siano carni bianche che sono più digeribili, o il pesce, cuociamole al cartoccio. La carta forno non bagniamola nell'acqua, bagniamola nel vino rosso o nella birra artigianale, in questo modo insaporiremo anche l'alimento. Senza aggiungere troppo condimento, certo. Certo, aggiungiamo dell'ottimo olio extravergine d'oliva a crudo, mm-hmm, e quindi con una cottura a bassa temperatura, che così non aggredisce anche qui troppo l'alimento e lo rende più morbido, quindi più facilmente digeribile, quindi non dobbiamo bruciarlo. Quindi, per parlarci in termini pratici, un forno a 140 gradi. Perfetto, quindi è proprio anche il modo di cuocere gli alimenti che può darci una mano per il nostro problema, vero dottoressa? È molto importante. Utilizziamo magari delle cotture a vapore e prendiamo il cestello di bambù, che non essendo di metallo, quindi di legno, arricchirà di sapore il certo. cibo. Mettiamoci delle erbe aromatiche, magari non le mangeremo se e stiamo corti con il sale, dottoressa Reverso, perché la nostra poi giovedì compie 15 giorni la nostra iniziativa, per cui ne parleremo ancora. Io ringrazio la dottoressa Reverso, grazie, noi ci sentiamo presto. Vi ricordo che anche il consiglio di oggi sul sale lo trovate sul nostro sito, su Facebook, e chi ha deciso di riceverlo a casa l'avrà ricevuto già stamattina. Professor Vaira, grazie, io mi sono molto divertita con lei. Grazie a le voi, prometto grazie che a voi. Inizierò a prendere lezioni di surf. Dottor Gargiulo, si iscrive anche lei. Ma naturalmente, ci magnifico, vediamo in Riviera. Grazie. Allora, e noi chiudiamo con una notizia che segna una vera e propria svolta per la ricerca, che da anni lavora per portare i risultati del suo impegno al letto del paziente. In corso in questi minuti a Milano, a Palazzo delle Stelline, una conferenza stampa per annunciare un'alleanza internazionale che punta nel giro di pochi anni a sconfiggere in maniera definitiva 7 gravi malattie genetiche e rendere le nuove terapie disponibili per tutti i pazienti nel mondo. Protagonisti di questo accordo, Fondazione Teleton, l'Istituto Scientifico San Raffaele e la multinazionale farmaceutica GlaxoSmithKline. È la prima volta al mondo, ne parliamo con la dottoressa Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Teleton. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dottoressa Pasinelli, una triplice alleanza per la cura di 7 malattie, un accordo che non ha precedenti nella storia. Direi di no, perlomeno non che a noi risulti, è un grande successo. Oggi siamo molto emozionati di poter annunciare questa cosa, perché questo fatto è sicuramente una pietra miliare in questa sfida molto difficile a sconfiggere malattie genetiche rare, per lo più molto rare, che fino ad oggi avevano ricevuto un bassissimo interesse da parte delle grandi industrie del farmaco. E il fatto che sia stata scelta la ricerca italiana da GlaxoSmithKline, che è una grande multinazionale, appunto conferma la leadership che noi abbiamo acquisito in questo settore, che nella fattispecie è quello della terapia genica. Dottoressa Pasinelli, cosa prevede l'accordo? L'accordo prevede che il nostro istituto di ricerca, che è l'Istituto San Raffaele Teleton di terapia genica, quindi questa alleanza fra noi e il San Raffaele, riceva un primo investimento di 10 milioni di euro che vanno sostanzialmente a compensare tutto il lavoro che è stato sulla terapia genica della SCID che abbiamo fatto in questi anni, che voi avete continuato a seguire, no? Sì. Questa cosa è una cosa che lei ed io ci diciamo da molto tempo nel corso delle vostre trasmissioni, la necessità di rendere fruibile un risultato che è il risultato che abbiamo prodotto negli anni. Ebbene, adesso viene data la licenza per questa terapia, che quindi verrà messa in commercio e resa disponibile ai pazienti, ma soprattutto l'azienda finanzierà successivamente tutte le tappe della ricerca sulle altre 6 malattie attraverso finanziamenti legati ai completamenti di traguardi intermedi, per cui in fondo abbiamo la garanzia che, se tutto va bene, l'azienda ci seguirà fino alla fine anche dello sviluppo delle altre terapie, fino alla loro messa a disposizione dei pazienti. È una chiusura del cerchio: noi raccogliamo fondi promettendola una cura, una ricerca per una cura. Se non avessimo potuto stabilire un'alleanza di questo tipo, la promessa sarebbe stata vana, no? Il mantenimento incompleto. Invece così possiamo dire che finalmente siamo arrivati fino in fondo. Magnifico. E siamo magnifico. Molto contenti, sì. Dottoressa Pasinelli, questa alleanza è il frutto di impegno, trasparenza, merito e aggiungerei generosità. E dimostra come anche in Italia si possa fare ricerca all'avanguardia e che, me lo lasci dire, il nostro paese non è secondo a nessuno. È proprio così, in un periodo in cui annunciamo solo brutte notizie, no? E invece bisogna guardare con grande fiducia al fatto che, se anche il pubblico dà fiducia ad un'organizzazione come Teleton, che promette una cura ma solo passando attraverso la ricerca, e una ricerca selezionata con rigore come l'unico strumento per arrivare a delle soluzioni definitive, e se questo lavoro viene perseguito con grinta, pazienza, rigore per molti anni, si arriva a grandi risultati che ci veramente mettono ai primi livelli nel mondo. Quindi credo che possiamo esserne tutti orgogliosi, noi, i nostri ricercatori, i pazienti che ci hanno dato un mandato e chi come voi ci sostiene da molti anni comunicando tutto quello che facciamo. Grazie dottoressa Pasinelli, buona giornata. Grazie a lei. Grazie. Buongiorno, arrivederci. E per oggi è tutto, a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.